e se ne vanno, che vanità, gioia e dolore, che se ne va, e se ne vanno, che vanità, gioia e dolore, che se ne va. Pensavo di essere uno di quelli là che vagano nel mondo di città in città, e ieri poi vi ho detto andiamole a cercare, pollastre su due gambe da lì a là, ci passano davanti e noi che si fa, richiami, urli e fischi, ma niente da fa. E se ne vanno, che vanità, gioia e dolore, che se ne va. E se ne vanno, che vanità, gioia e dolore, che se ne va. Andiamo via, per carità, ci stanno a guarda tutti, Madonna mia. Vi ho detto stasera, se potrò va, ma guarda tu la sfiga, dove può arrivare. E se ne vanno, che vanità, gioia e dolore, che se ne va. E viene vanno, che vanità, gioia e dolore. Più niente da fa, ci ritroviamo soli ancora a cercare, ma l'ovo pure il gallo a te solo fa, e noi ce la giappamo in quel posto là. E se ne vanno, che vanità, gioia e dolore, che se ne va. E viene vanno, che vanità, gioia e dolore, che se ne va. Se ne vanno, che vanità, gioia e dolore, che se ne va, e viene vanno.